con Alberto Fassina di Partenos Distribuzione per parlare del film Le nostre battaglie, in uscita in sala giovedì 7 febbraio 2019. Alberto, ben trovato. Ben trovato anche qui. Lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta? Le nostre battaglie, fondamentalmente è un film che si muove su due ambienti. Uno è l'ambiente di lavoro, il protagonista è Romain Duris e lavora in un grande posto di spedizioni, di pacchetti, di catene di montaggio che potrebbe appunto ricordare Amazon, e poi si muove all'interno della sua famiglia, delle mura della sua casa, dove a un certo punto accade un evento, e l'evento è che la sua compagna, sua moglie, scompare, se ne va. Fondamentalmente, come si dice in una battuta del film, non è che è scomparsa, insomma, se n'è andata, l'ha lasciato, e ha lasciato assieme a lui, ha lasciato anche i suoi due figli piccoli. Ecco, quindi c'è questo uomo che si deve muovere nell'azienda dove ha anche, insomma, un ruolo da un punto di vista politico importante, perché comunque è un sindacalista, deve risolvere tutta una serie di questioni, e la questione del vuoto che si viene a creare a casa. Ecco, secondo me è un film, come dire, che ha tutta una serie di elementi in qualche modo che possono ricordare altri film, cioè tutto il mondo, diciamo, del lavoro e il modo in cui è raccontato può far venire in mente certo cinema dei fratelli Dardenne, che tra l'altro è belga, insomma, quindi è sicuramente un po' nel DNA, nella sua formazione, quel tipo di cinema, insomma, molto sincopato nello star dietro ai personaggi e alle questioni legate appunto al sociale, all'attualità. Dall'altra parte, invece, quando si entra nella dinamica familiare, beh, anche in questi giorni, leggendo un po' di recensioni, si fa un po' riferimento allo schema, un po' alla Kramer contro Kramer, no? Dove fondamentalmente c'è quest'uomo che deve imparare a fare delle cose con i figli, insomma, dalla colazione ai vestiti, a gestire, insomma, un'influenza, a tutta una serie di questioni che prima in qualche modo non gli competevano, insomma. E questo, secondo me, è la forza appunto del film, è di saper gestire bene questi due registri, cioè da una parte il film sul mondo del lavoro e dall'altra invece il film intimo. E secondo me Guillaume Senet, che qui è al suo secondo lavoro, dimostra una maturità che a me fa venire anche molta voglia di sapere quali saranno anche i suoi prossimi progetti. Insomma, un regista che mi giovane, 40 anni, che mi fa veramente ben sperare proprio per il cinema, sai, quando si dice talento, ecco, insomma, un regista che firma un'opera seconda così, secondo me è uno di cui si sentirà anche parlare in futuro, ecco. A detta del regista, lui è partito da un'ipotesi. Cosa succede in una famiglia composta da moglie, marito e figli quando per un evento imprevisto uno dei due viene a mancare e quando tutti e due lavorano? Ecco lì che il sistema famiglia è messo gravemente in crisi, rischia il collasso. La cosa che mi ha preso vedendolo è proprio questo. Capire le dinamiche, perché poi ci sono dei piccoli segnali che l'altra persona dà, ma quando uno è tutto preso dal proprio quotidiano, rischia di non vedere, forse anche materialmente non è in grado di fare nulla, cosa succede quando l'evento imprevisto piomba nelle dinamiche familiari. Sì, il discorso è proprio questo, cioè è cercare di raccontare, di fare un film, di costruire una storia su piccoli eventi, no? Piccoli eventi che però poi in qualche modo riverberano, e il suono di questo riverbero, che all'inizio è debole, poi invece produce, insomma, risultati importanti. Ad esempio, che ne so, nel momento in cui il personaggio prende consapevolezza della situazione in cui è, ovviamente attorno a lui si muove un mondo, insomma, diciamo così, solidale. Insomma, arriva la mamma che gli dà una mano con i figli, la sorella, i vicini, i colleghi, insomma, e ognuno fa qualcosa, però non è che queste cose sono, che ne so, romanzine piuttosto che grandi riflessioni oppure litigi oppure, non so, la nonna che decide di accollarsi lei il peso, cioè ognuno fa un po' il suo, non viene quasi mai preso in considerazione la cosa che è successa. La cosa è successa e punto, insomma, come un po' nella vita vera. Cioè, nel momento in cui c'è una questione, sì, insomma, ne puoi tanto anche parlare, starci dentro, insomma, rifletterci, però, insomma, dopo le giornate vanno avanti, quindi, insomma, bisogna fare cose, insomma, in continuazione. Ecco, il film è un accumulo di giornate, di momenti, in cui si fa fronte a questa situazione. Secondo me la cosa bella, proprio anzi, una cosa che mi ricordo quando ho visto il film la prima volta che mi ha colpito, è questo sguardo laico su tutto, anche se vogliamo sul mondo del lavoro, cioè nel senso è logico che la situazione in cui che viene raccontata non va bene, no? Ed è logico che la situazione che è a casa non va bene, però è una battaglia che bisogna affrontare e la si affronta punto e basta, insomma, senza dover per forza ogni volta, no, stabilire delle colpe, dei processi e cercare appunto di andare a fondo alle questioni, cioè bisogna proprio portare a casa, come si dice, il punto ogni giorno e questa cosa qui che potrebbe sembrare in qualche maniera appunto cinica, se vogliamo, cioè perché uno potrebbe dire vabbè, ma non è che per andare avanti nelle nostre giornate non dobbiamo insomma tenere conto di alcuni principi base, voglio dire, ti prendi un impegno con una famiglia, non è che la puoi lasciare dall'oggi al domani, però insomma lo sguardo, la maniera di girare, di se ne ti tiene semplicemente dentro questa storia, non ti fa distrarre ed è bello sentire in qualche maniera che c'è più vita in questo film che in riflessioni profondissime sulle questioni che tratta questo film, insomma, Sì. ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, no, vai, anche Ecco. l'elemento secondo me determinante è che coloro che restano, quindi i figli e il marito, alla fine si redistribuiscono la responsabilità di quello che è successo e quindi non Esatto. c'è colpevolizzazione assoluta dell'altro. Esatto, sì. E poi se mi permetti di dire, Sì. volevo dire che è un film, insomma, lo dico anche proprio per invogliare anche gli spettatori, gli ascoltatori, è un film che secondo me ha un finale molto bello e a me piace anche quando scegliamo Sì. i film come Partenos. Penso che insomma il finale, come a volte le prime righe di un libro, debbano avere un'idea, una marcia in più, insomma, perché proprio soprattutto nel caso dei film, è bello quando si esce dalla sala ancora con il sapore, con l'emozione delle ultime immagini viste sullo schermo. Ecco, secondo me questo è uno di quei pochi film, tra tanti film belli che ci sono, anche che ha uno di quei finali che con un'idea semplice che però ti resta e secondo me ti fa essere contento di essere andato in sala quel giorno a vedere questo film. Insomma, un finale che secondo me con una sorpresa e con una punta di emozione non così facile da trovare spesso, sempre, insomma. In quante sale sarà? Ma il film penso che sarà in una quarantina di sale in tutta Italia, mi sembra come cerchiamo di fare sempre dei piazzamenti in una serie di situazioni capaci, insomma, di accogliere, di lavorare bene sul film e di conseguenza, come succede sempre, insomma, soprattutto con i film indipendenti, insomma, di sperare che queste sale appunto diano un bel risultato nel primo weekend e poi insomma di eventualmente di allargarsi ad altre situazioni, però insomma 35-40 sale a febbraio nel weekend in cui c'è Clint Eastwood, insomma, mi sembra un buon risultato che spero insomma che il pubblico di qualità, insomma, apprendi questo film che tra l'altro è anche uno dei film, un film che sta avendo anche molto successo proprio nella stagione dei premi, ha ricevuto, pur essendo un film belga, ha ricevuto due nomination ai César per Romain Duris, che secondo me probabilmente il César lo vincerà, insomma, che fa un'interpretazione maiuscola, e come miglior film straniero, perché appunto il film è belga, quindi César per i Cesar rientra nei film stranieri. In Belgio ha vinto 5 Magritte, che sono praticamente gli Oscar del cinema belga. E a Torino, quando è stato presentato, ha vinto il premio del pubblico, che insomma è un bel premio, perché se vinci il premio del pubblico vuol dire che hai trovato, come dire, una sintonia con gli spettatori, e sta girando molti festival. La sua vita, insomma, è cominciata a Cannes, dove era presente la settimana della critica, e secondo me sta facendo proprio il tipico percorso di quei piccoli film di qualità che poi dopo hanno il tempo, in una stagione, insomma, di distinguersi grazie al successo in sala, grazie ai premi, insomma, grazie alla stampa, che anche in questo caso è stata molto favorevole anche in Italia. Allora ricordiamo il film Le nostre battaglie di Guillem Sené, in uscita in sala giovedì 7 febbraio 2019 con Partenos Distribuzione. Un saluto e un ringraziamento ad Alberto Fassina. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Ok, grazie, grazie a tutti.